Bentornati a Nella cervella di un gamer, in cui inviteremo un gamer o una gamer o quello che è, e ci parlerà di un videogioco e ci dirà perché proprio quel videogioco, cosa ha significato per lui, lei, essi, non essi, cosa in quel cosa l'ha trasformato, perché ce lo suggerisce. Comunque andremo ad esplorare accuratamente cosa i suoi neuroni sparano quando pensa, quando interagisce con questo videogioco. E stasera è una serata un po' particolare, perché innanzitutto per l'ospite sia per il gioco, perché hanno molto molta attinenza a che fare. Eccoci. Ma non è il telefono che si è girato, è la stanza che si è girata, il telefono è restato uguale, perché ha molta attinenza con quello che viene trattato in questo canale. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Allora, Deborah, per chi non conosce, chi si fosse collegato e non conosce chi è il sottoscritto, buon per voi. Vabbè, sono Francesco Di Muro, sono psicologo, mi occupo dell'intersezione tra la neuropsicologia, o meglio neuroscienza e psicologia, e dispositivi, cioè tecnologie digitali, con un pallino con i videogiochi, non solo quello che possono offrire dal punto di vista cognitivo, ma anche emotivo, come possono essere usati come strumento terapeutico in qualche modo, di crescita personale e sarcazzo. E questa rubrica, che ha avuto, diciamo, i suoi natali la settimana scorsa con Simone Pizzi, in cui abbiamo parlato quindi di Squelissimo, vuole indagare un pochino, vuole proprio prendere i gamer, fargli parlare liberamente, a ruota libera, di quello che è un gioco. Ecco l'ospite della settimana scorsa, lo saluta, di quello che è un gioco di cui hanno voglia di parlare, e cerchiamo di capire perché ci voglio parlare, cosa hanno fatto, li ha cambiati in qualche modo, li ha trasformati, come in generale anche il videogioco può essere concepito, sia dal punto di vista ludico che anche dal punto di vista di personale in qualche modo. E qui non poteva lo strumento sarcazzo, ok, è vero, e non potevo non invitare, cioè, la qui presente Pixel Dev. Presentati un po', parli un po' di... Hai tutto? Vai tu, perché non so presentare la gente. Presentati tu, se no... Allora, un canale YouTube da 3 anni e mezzo, dove porto soprattutto avventure grafiche, visual novel, queste cose qui che sono le mie preferite. Poi ho provato a portare anche Far Cry, insomma... vari generi, ieri sera un horror per festeggiare il PC nuovo finalmente. Avevo un portatile, ho tuttora un portatile, e poverino, l'ho strizzato bene questi 3 anni e mezzo, mi stava dicendo guarda che tu stai esagerando, tra un po' mi esplodeva penso dentro casa, e finalmente il regalo di laurea, in laurea in psicologia, ho avuto il computer che è arrivato l'altro ieri, quindi ieri sera abbiamo festeggiato con una bella liveozza seria, insomma, e quindi questo. Finalmente, quindi nuovi strumenti per ancora più video, perché hai macinato, quante ore hai macinato fino ad ora di video? Io in un anno ho più di 9.000 ore di visualizzazione, quindi... Che... E insomma, per il mio piccolo canale è tanto, quindi sono molto contenta. Dice Simone che live dove ha blastato gente perché parlava male dei manga. Niente, gli è rimasto questa cosa. Questa mattina mi ha scritto che ha recuperato la live e questa cosa mi ha fatto ridere, quindi vabbè, gli è rimasta impressa oggi questa cosa dei manga. Vabbè. Tanto salutiamo, ripeto, è stato l'ospite della volta scorsa, che tra l'altro c'è un sottile filo conduttore tra il gioco della volta scorsa e quello di oggi, perché proprio fine, fammelo tirare, lo tiro per i capelli, nel senso che c'è di base che sia di Squelissimo che quelle di cui parleremo oggi sono essenzialmente dei giochi narrativi. Di Squelissimo sì, molto più aperto perché è un gioco di ruolo, invece presentalo tu. Questa è una visual novel, quindi è più classica, nel senso sì. Eliza, diciamo proprio dal nome, anche se un po' che... Un gioco che è uscito nel 2019, mm-hmm. E è una visual novel, stile manga, prima del tema. E praticamente io ho pensato di portare questo gioco perché l'abbiamo giocato in live sul mio canale qualche mese fa e onestamente è piaciuto tanto a tutti quelli che l'hanno seguito, soprattutto io ho fatto due palloni a chi ha seguito la live, perché il gioco è durato 13 ore quando poteva durarne molto di meno, perché io mi sono messa poi a parlare di psicologia, che ero arrabbiata con questa nuova tecnologia. Perché praticamente di che cosa parla Eliza? C'è questa ragazza che si chiama Evelyn, che lavorava per una ditta come ingegnere, e lei e un altro gruppo di amici hanno inventato questo sistema, questo software, per fare in modo che fosse uno psicologo, quindi è un software psicologo. Quindi la cosa positiva era che il costo per fare una seduta era molto inferiore confronto ad andare da uno psicologo vero, e quindi questa era un'opportunità per chi non poteva permettersi questa visita, questa terapia, anche perché poi è fatta di più sedute, quindi ci devi andare almeno una volta a settimana, una volta ogni due settimane, comunque bisogna andare, è una cosa lunga, e non tutti hanno la possibilità economica di poter sostenere una spesa così alta, anche perché è una spesa alta, è ambientato negli Stati Uniti, a Seattle, sì. Che confronta qui negli Stati Uniti andare a veramente una seduta psicologica è ogni volta un polmone, e quindi non lo possono fare, e sappiamo che la sanità negli Stati Uniti, insomma, se non hai assicurazioni eccetera eccetera, ti fanno anche crepare per strada, quindi non è che si fanno molti problemi sotto questo punto di vista. Quindi la cosa buona di questo software è il fatto che comunque era più fattibile per tante persone. Se non sbaglio, intorno ai $40 l'ora, considerando che qui una seduta psicologica è tra i 50 e massimo i 120, avevo letto, lì considerarla economica è $40, quindi è comunque un costo elevato, ma a confronto da una persona reale costa poco. Quindi sotto quel punto di vista è stata una buona idea. Il problema è che io sono stata arrabbiatissima tutta la live, perché un computer, cioè è comunque un software con numeri 01101011101, cioè nel senso, questo codice binario, per quanto possa essere fatto bene, per quanto possa comprendere la tonalità della voce della persona che sta parlando e le parole che usa, quindi il computer dice si è arrabbiato, si sta iniziando a sentire triste, è felice di questa cosa, e quindi a seconda del sentimento che prova la persona mentre parla, il computer dà una risposta tra quelle programmate. Discutibile a mio avviso, perché il cervello umano è una delle cose più complicate in assoluto. Tutte le persone sono diverse, tutte le persone affrontano le difficoltà della vita in maniera diversa. Non può un computer, un software che è stato programmato, riuscire a dare una risposta a tutti. Non ci riesce neanche l'essere umano, cioè nel senso, anche un luminare della psicologia fa fatica ad aiutare qualsiasi persona. Quindi immaginatevi un software che è programmato, cioè nel senso, le sue risposte alla fine sono sempre quelle. Gira che ti rigira, infatti le risposte nel videogioco erano sempre quelle. E quindi sembra una presa in giro, perché questi poverini andavano a spiegare i loro problemi. Poi, per farlo diventare più umano, ci sta un attore, diciamo, che viene pagato. Il proxy, il tocco umano, sì. È una sorta di... Vabbè, io lo chiamo attore, vabbè. Nel senso, c'è, cioè, questa persona che legge quello che dice il server, questo programma, il software Eliza, per fare in modo che ci sia più rapporto umano. Ma in verità lui sta soltanto leggendo, le persone che stanno davanti sono consapevoli del fatto che è il computer che sta rispondendo, ma è palese, perché la cosa bella di questo gioco è che ti porta a varie persone con varie problematiche, quindi c'è chi magari ha difficoltà nel riuscire a realizzare i propri sogni, si sente inferiore, o c'è chi si crede troppo sto cavolo e non riesce a capire perché non riesce ad arrivare ad avere quello che vuole, è troppo importante. O c'è una signora, che è stata la mia preferita, una signora anziana, che veniva a farsi due chiacchiere. Quindi cosa faceva capire? Questo, che si sentiva molto sola, aveva bisogno di parlare, di essere ascoltata. Infatti parlava di cavolate, non parlava di problemi suoi personali. Quella signora mi ha fatto veramente male, perché si vedeva che era una persona molto sola. Queste cose io le posso capire, un essere umano le può capire, soprattutto se uno ha studiato la psicologia, è normale che un minimo di empatia ce l'hai, se no vai a fare un altro mestiere, insomma, tu ti devi mettere nei panni di chi hai davanti. Un computer potrà mai essere empatico per quanto fatto bene il programma? Direi di no, perché io provo dei sentimenti nella mia vita, l'ansia la provo, la paura la provo, la gioia la provo, la disperazione la provo, tutto. Io ho provato tutti i sentimenti che provano tutti gli esseri umani. Come dicevamo, tutti in modo differente li provano, ma alla fine la base è quella. Quindi se tu mi stai raccontando una cosa triste, io riesco, se sono empatica, ad avere un'intelligenza emotiva, a comprendere il tuo stato mentale, quello che stai provando, ok? E quindi se ho studiato psicologia, posso aiutarti a andare avanti, a trovare una strada insieme per fare in modo che tu possa affrontare nella maniera più sana possibile il tuo problema. Un computer non può fare questa cosa, infatti in tutto il gioco dà più o meno le stesse risposte a tutti e risolve il tutto con vai dal tuo medico e fatti dare questa medicina. Quindi uno psicologo vero non è contento di dare lo Xanax a destra e a manca, perché lo Xanax non è una soluzione, è un palliativo di qualche ora e poi sta da capo a 12. Quindi uno psicologo vero non può dare medicina, andare dal medico appunto o da uno psichiatra può fare un invio che può essere utile, cioè comunque senza demonizzare troppo. Dovrebbe prendere questo, però non può fare la ricetta perché non è medico. E infatti il computer dice vai dal tuo medico a farti dare questa medicina, cioè risolve tutto con fatti dare la medicina, cioè non è che aiuta la persona. Oppure esercizione di meditazione, come? Prescrive anche gli esercizi di meditazione, di respirazione, queste cose qua. Altra cosa che fa questo computer, oltre a darti la medicina di turno a seconda del tuo problema, ti fa scaricare un'applicazione da usare un quarto d'ora al giorno per, che ne so, rilassarti. Cioè, onestamente, no? Io dico, ma questo è un modo di affrontare in maniera sana una malattia mentale, perché qui si tratta di malattie. Per quanto in Italia questo argomento sia ancora un tabù, e negli ultimi anni pare brutto dirlo, ma grazie al Covid si è capito l'importanza della salute mentale, perché adesso grazie Covid danno un bonus cosa che non era mai esistita in Italia. Cioè adesso tramite una pandemia in Italia abbiamo iniziato a dare importanza alla salute mentale, non è quasi più un tabù, perché le persone pensavano io vado dallo psicologo significa che sono matto, non devo dire a nessuno, una vergogna. Ma come uno si ammala di tumore, cioè si può ammalare di malattie mentali. Io, ad esempio, ne parlo in prima persona, non me ne vergogno assolutamente, sono 5 anni che soffro di attacco di panico. Per un anno sono andata dallo psicologo clinico, che è il mio supereroe, ogni volta glielo dico sempre. Gli ho dedicato la mia tesi, gli ho detto grazie a te che mi sono appassionata alla psicologia. Io ero una persona scettica, perché io sono sempre stata scettica con la psicologia, perché nella mia mente bacata la psicologia era quella dei film americani, quella che ci passi 6 anni della tua vita e non ricordi niente, tu vai lì, parli quello che appunti e quindi diceva una cazzata inutile. Ovviamente passando il problema in prima persona, andando da un professionista, mi ha salvato la vita. Cioè nel senso, io tutti i giorni ho una malattia ed è difficile convivere con questa malattia, è una sorta di vita, perché io non riesco ad avere una vita normale. Cioè io ogni piccola cosa che faccio per me è sempre una prova. Oddio, devo andare alla Dina, che non è lontano per dire, ce la farò a stare in macchina? Mi viene un po' di claustrofobia. Io non ho mai sofferto di claustrofobia, da quando ho attacchi di panico soffro di claustrofobia. Ovviamente il Covid in questo a me non ha aiutato, perché già stare in mezzo a tanta gente è tutto chiuso, mi dava fastidio. Adesso pensando, oddio, mi attaccano pure il Covid, diciamo, per me è stato ancora più complicato, perché già c'avevo una malattia. Quindi io convivo con questa malattia tutti i giorni, fare il momento di TV, la poverina, povera stella, odio queste cose, sono sempre odiate. Ne parlo oggi perché tu sei stato così carino a invitarmi. Secondo me è un argomento molto importante, perché il videogioco a me aiuta tantissimo. Io da tutta la vita che gioco ai videogiochi, da quando ho questa malattia che non mi lascia in pace tutti i giorni da 5 anni, lo risottolineo, e non so neanche se guarirò mai, perché è una malattia alla quale non c'è cura, c'è solo la speranza di poter un giorno guarire. Però io vado avanti, l'importante è andare avanti, e posso assicurarvi che il videogioco, il canale, le live, perché io sono sempre in live, ragazzi, cioè non è perché veramente non c'ho cazzo da fa, anche se in questo momento non c'ho cazzo da fa, però è perché a me mentalmente mi aiuta a convivere con una malattia. Cioè io sto sempre a fare video, sto sempre a fare live, sia perché mi diverto tanto con voi, ma perché questo e la vostra presenza, che mi fate un sacco di risate, eccetera eccetera, mi aiuta a convivere. Quindi la videogame therapy che sta cicciando fuori veramente aiuta tanto, e quindi ho pensato di portare Liza, perché c'è comunque psicologia, videogiochi, tecnologia, però da un punto di vista secondo me errato. E infatti la protagonista, dopo 3 anni che ha fatto questo software, inizia ad avere dubbi. Avrò fatto la cazzata? Probabilmente sì. Chiacchierò troppo, interrompimi. No, non ci riuscivo a interromperti, cioè hai detto almeno 10 cose che potevano partire, ma andiamo a prendere qualcuno e andiamo proprio a un pochino a espandere, perché pure sul discorso computer per la salute mentale, per l'aiuto, queste sono cose molto interessanti. Un computer può sentire emozione, questa cosa che c'è un filone della fantascienza e della filosofia della mente, l'etica delle IA che studia sta roba, per cui non c'è una risposta semplice. Ovviamente alcune cose possono essere giustamente delle opinioni, come hai detto tu, per me è un computer. Cioè, tu, se ti ci mettono, io mi immagino a te che ti ci mettono col computer psicologo, e tu vai là e tu dici: ma con più, ma io a te, che cazzo c'è? Ti immagino proprio questa situazione. Però mo ci arriviamo piano piano. Voglio partire proprio da effetto recency, dall'ultima cosa, di questa cosa che mi fa piacere in questo fondamentalmente piccolo spazio. Alla fine non è che piccolo spazio che ho potuto dare, ho potuto parlare apertamente di sta cosa, perché diciamo gli attacchi di panico, il panico spesso magari vengono, cioè nell'ideale comune è uno che sbianca, inizia a fare questo, cioè all'improvviso. In realtà c'è un qualcosa, cioè molto quasi una caricatura. In realtà è una cosa molto più sottile a volte. È una cosa, non necessariamente c'è sta cosa eclatante della tachicardia, dello svenimento, della derealizzazione. Non è sta cosa, per fare esempio improvviso, che vabbè, ti basta evitare la cosa che ti fa paura. No, perché a volte può venire pure praticamente all'improvviso, come hai detto tu. Per me qualsiasi cosa è una prova, qualsiasi cosa scatena un'ansia, diciamo una preoccupazione, può e potenzialmente scatenare una preoccupazione da attivare, cioè, il mio sistema di attacco fuga che funziona fin troppo bene, o tra virgolette fin troppo male, in modo oltre esagerato, che ti blocca, ti stramazza, ti impedisce proprio, come hai detto tu, di vivere, di fare a volte anche delle cose quotidiane. Col videogioco, tanto bistrattati, tanto che si dice che i videogiochi isolano, che i videogiochi ti scemonisci, che i videogiochi si diventa obesi, eccetera eccetera, tu con la tua esperienza ti dimostri innanzitutto, cioè, anche se innanzitutto, cioè, tu ti crei una comunità, chatti con la gente che ti segue, oppure giochi in multiplayer, giochi fondamentalmente a volte multiplayer, perché dici nelle dirette, dice la gente, allora che esce, visto che giochi spesso a dei giochi narrativi in cui bisogna fare delle scelte anche solo di dialoghi, dice allora che faccio, che scelgo questo, che gli faccio dire questo, quest'altro, battute, altro, comunque già vai a smontare uno degli stereotipi principali, il fatto che con i videogiochi ci si isola, con i videogiochi ci bambattisce. Tu praticamente vai perennemente sempre in multiplayer, anche quando banalmente, cioè, confermami tu, anche quando banalmente registri un gameplay e poi lo carichi, comunque poi c'è tutta la fase dei commenti, delle visualizzazioni, dei feedback dopo, pure sul canale Telegram. Cioè, comunque, magari mi blocco, dico, regà, ditemi, lo so, e magari uno vede il video e mi scrive, prova a fare questa cosa, allora io il video dopo dico, come mi ha detto tizio, proviamo questa cosa, poi se c'è un oh, grandioso, mitico, e se no dico, vabbè, ci abbiamo provato. Sì, questo per dire comunque favorisce pure non solo il senso di comunità, anche il di reciprocità, di aiuto reciproco, il fatto che tu banalmente ti fai aiutare e poi gli riconosci questo aiuto. Comunque poi questo si mette un altro, diciamo, canale di studi, diciamo, un altro, diciamo, campo di studi, quello lì degli streamer barra influencer, del rapporto che si hanno con i follower, tutti quei meccanismi. Comunque tu stai dando una gratificazione poi a quella persona, perché comunque quando ti segui dici grazie a quello, diciamo, che bello, magari ti motiva ancora di più poi a seguirti. Tutto un meccanismo assurdo, normale in realtà, che però sembra assurdo a volte, dice, ma come, c'è sta cosa, sta lì col computer da sola, e invece no. Quindi comunque l'hai usato attivamente come strumento. Dico, quando in live ci sono i linguini matematici, chi mi segue matematica faccio schifo, ma so fa 2 più 2, ma tipo facendo 1, 2, 3, 4 per farti capire, insomma, cioè faccio sempre prove in matematica. Allora loro lo sanno, mi prendono in giro e io dico, siccome ci sono degli ingegneri che mi seguono, ingegneri e ingegnerati fate voi, e quindi loro fanno, andiamo avanti, grandissimi, bravissimi. Cioè ormai c'è anche chi bravo nel settore, capito? Ad esempio ieri sera c'era il personaggio che era sudamericano e diceva alcune cose in spagnolo. Allora, alcune le capivo, però poi c'erano delle esclamazioni che non conoscevo, e ci sta un ragazzo che è sudamericano e gli dicevo, oh, mi dici che ha detto? Quindi capisci anche questa cosa, cioè alla fine anche la cultura, perché tante volte mentre noi giochiamo e c'è una cosa che non sappiamo, allora magari dico a un altro amico, gli dico, senti, vai a vedere un attimo che magari sta seguendo la live su Wikipedia se esiste veramente questo libro o dov'è ambientato questa cosa. E quindi alla fine è un modo per fare comunità, ma anche per imparare tante cose. E ad esempio, allora, come spuntare un po' il mio liceo, io ho fatto il liceo linguistico, perché adoro le lingue. Sono uscita da lì e non sapevo niente, cioè nel senso, io stavo 5 anni così, per prendere il pezzo di carta con scritto diploma, va bene. L'inglese che io ho imparato, l'ho imparato solo tramite anni e anni di videogiochi. Cioè io l'ho imparato tutto, quasi il 90% dei videogiochi, poi vabbè anche dai film, dai cartoni, eccetera, la musica, i libri, ma ti giuro, ad esempio a me mi ha insegnato anche l'inglese. Cioè, quindi il videogioco per me è soltanto fonte di conoscenza, di amicizia e di divertimento, di serenità mentale. Cioè ogni volta che si accaniscono, no? I videogiochi, i ragazzini, i genitori che rompono, eccetera, eccetera. Io ho iniziato a giocare che avevo 5 anni, all'amica, a Monkey Island 1, e mia sorella, che leggeva i testi perché io ancora non riuscivo a leggerli, e mi ho smesso. Però ripeto, cioè, a me ha portato soltanto cose buone. Io tramite le avventure grafiche ho trovato il mio primo ragazzo del quale mi sono innamorata. Invece tramite i manga ho trovato Gabriel, quindi per un altro settore. E io così, tramite internet ho trovato i due ragazzi che ho amato nella mia vita. Cioè per me la tecnologia è soltanto cose positive. Se la tecnologia è bella, ovviamente se te la vai a cercare, lì però te la stai cercando. E infatti, perché diciamo poi la regola, quello che poi emerge sempre, poi ne abbiamo parlato anche con Marco Lazzer la settimana scorsa, ne abbiamo parlato e riparlato alla fine, è vero che ci sono anche, diciamo, tra queste nuove patologie, nuove condizioni problematiche scaturite con l'online o con la tecnologia, però è quasi sempre uno slatentizzare di qualcosa che già, di un disagio, un qualcosa che già c'è alla base, o come un sintomo di qualcosa che già c'è alla base. Molto difficilmente, cioè raramente è quello, diciamo, è stato proprio l'internet, è stato quello che ti ha causato quella patologia. La maggior parte delle volte e la tecnologia in qualche modo ha tirato fuori qualcosa di buio che era dentro di te. Questo dicendo, facendo un item per semplificazione, non è sempre così, però nella maggior parte dei casi è così. Per esempio citando pure antropologo digitale con cui ultimamente stiamo parlando di FOMO, la Fear of Missing Out, alla fine è vero che è emersa quasi più, cioè è diventata quasi più famosa questa situazione, cioè di venire tagliati fuori e vedere a cavolo la gente chissà che sta facendo in giro sui social, questa situazione sociale di essere tagliati fuori è venuta, cioè si è espansa, cioè è diventata più celebre con l'emergere dei social, della tecnologia, però si basa su qualcosa che è il rifiuto, diciamo, quella la sensazione di esclusione sociale che c'è di base, che per alcune persone può essere molto problematica, e alcune persone che già hanno una tendenza ansiosa, già hanno un'insicurezza di base, una scarsa autostima, poi tendono a dimostrare questa cosiddetta FOMO, cioè è molto difficile che tu stai bene, stai fantasticamente, ti prendi il telefono e inizia, che ne so, e diventi un hikikomori, cioè col videogioco, con i social, perché hai scoperto il videogioco, è una cosa molto più complessa. Però a parte di questo, poi mi hai detto tu, bene o male, cioè, che la tecnologia fondamentalmente ti ha fatto solo bene, e questo mi voglio ricollegare giù un pochino di più a quello che è Eliza, quindi questa visual novel, un gioco quindi che non si spara, non si va a prostitute, cioè un gioco puramente, per chi non conosce, un gioco puramente narrativo, devi fare delle scelte al massimo, dei dialoghi, ci sono delle minime ramificazioni su dove poter andare, ciò che c'è, dei finali alternativi, però comunque fondamentalmente è molto lineare, una storia in cui si vive la storia di questa protagonista e tutto quello che gli gira intorno. La cosa bella è che è molto, io l'ho iniziato solo in settimana, ci ho giocato solo un'oretta, quindi sto ai tra virgolette primi pazienti, alle prime situazioni, però la cosa che ho visto pure da quanto mi hai raccontato, cioè non è un gioco tra virgolette fantascientifico, è un gioco molto, cioè molto, diciamo, basato su quelle che sono fondamentalmente delle applicazioni di come si muove un certo ambiente, una certa industria, quella del digitale, della tecnologia digitale, tutto il mercato dei dati, eccetera eccetera, quindi va molto davvero, è un nervo scoperto su come un certo tipo di industria, un certo tipo di fare cose esiste attualmente nel mondo, e si basa e poi diciamo il fatto che fondamentalmente Eliza prende il nome da quello che diciamo il protagonista, non protagonista, beh, la protagonista è Evelyn, però comunque al centro c'è questo chiamiamolo l'intelligenza artificiale, cioè questa applicazione, questa società che ti fa da psicologo tra virgolette, e prende il nome, però non è, cioè, un'invenzione del gioco, perché esiste, cioè, dagli anni 60 esistono praticamente queste, sì, perché lo stesso Eliza prende il nome dal primo, diciamo, chatbot esistente, la prima, tra virgolette, intelligenza artificiale che simulava uno psicologo, che è stato creato proprio nel 66 da Weizenbaum, uno dei più importanti informatici della storia, che simulava proprio uno psicologo di stampo rogersiano, quindi tu gli scrivi una cosa e lei ti rispondeva a tono, poi dopo un po' scoprivi che c'erano i limiti, però molte persone spesso non aveva superato il cosiddetto test di Turing, cioè che delle persone che non sapevano se fosse una persona o un computer, pensava davvero che fosse una persona, tu gli scrivevi, eccetera eccetera. L'aveva citato pure Simone, che nel Commodore 64 c'era un programma che faceva una cosa del genere, molto probabilmente era qualcosa basato proprio su Eliza, perché questo poi ha scatenato una serie, proprio tutta una serie di cosiddetti chatbot fino ai giorni odierni, ce ne sono stati tantissimi, tante applicazioni, alcuni per scherzo, perché Eliza era quasi una parodia, capito? Era quasi, cioè non era, è stato creato da, il creatore non l'ha creato, ecco, ti faccio lo psicologo digitale, diciamo così, l'aveva creato quasi, non dico per divertimento, diciamo, era quasi una parodia del modo di condurre queste, la parodia di uno psicologo, diciamo così. Poi se vai online su internet lì trovi tantissime versioni che te l'hanno, diciamo, ricodificato, quindi fedele, diciamo, al 100%, diciamo, emulazioni, che sono più in realtà di sorta di remake. Però comunque questa tradizione non si è estinta, in realtà ce ne sono stati tanti altri nel corso degli anni, e anche ora ci sono non solo non solo delle app, diciamo, disponibili dal punto di vista commerciale, scaricabili, ma ci sono anche degli impieghi dal punto di vista, per esempio, uno famosissimo, il cosiddetto Sim Sensei, che è stato utilizzato proprio in ambito militare per il PTSD e non solo, uno dei più avanzati. Poi da questi sono stati sviluppati degli altri. Quindi diciamo che questo Eliza non è così fantascientifico, perché esistono effettivamente delle applicazioni del genere. E possono essere utili, alcune sono risultate anche molto utili, diciamo. Per esempio, a me viene in mente quello più commercialmente famoso, che si chiama Wipeout, però sempre con l'attenzione, diciamo, quello che vuole far passare il gioco Eliza è quasi che esiste questa industria, questa applicazione, questo servizio che diventa un sostituto di uno psicologo. È qui che viene il problema. A prescindere dal fatto che dallo stato di avanzamento di pura intelligenza, diciamo, il fatto è che comunque viene usato proprio in sostituzione di e non accanto a. Addirittura qui con Eliza nel gioco l'elemento umano è solo quell'ingrediente in più che serve per farlo essere più efficace, per mantenere il livello di interazione, cioè, umana faccia a faccia, diciamo, per rendere più interattivo. Però comunque viene usato in sostituzione di, non come strumento che può essere utile, diciamo, che non prescrittivo, ma può appoggiare in qualche modo, può sostenere a livelli bassi, in qualche modo può essere d'aiuto, una terapia di supporto. Ecco, diciamo, da questo punto di vista, io non ripeto, visto che ci sono pure delle ricerche in merito, degli esempi concreti che funzionano, sia a livello più settoriale, come quello militare, che a livello più ampio, non mi sentirei di dire no, fanno schifo e basta. Però ripeto, è sempre dall'uso che se ne fa, come dico io. Infatti anche io, ce ne sono anche delle applicazioni che non sono necessariamente intelligenze artificiali, però comunque che ti chiedono magari a volte come stai, ti fanno fare, diciamo, degli esercizi, qualcosa per farti stare meglio. Ecco, se lo devi usare solo quello, no, perché non ti serve un cacchio, oppure ti serve essere anche controproducente, perché comunque però comunque usarli sempre in concomitanza con un percorso, oppure con la conoscenza che non sono degli strumenti risolutivi, che non sono degli psicologi digitali che sostituiscono lo psicologo, perché ti fanno fare meditazione, quindi se si passa questa consapevolezza possono essere usati in modo diciamo ottimale. E poi c'è anche tutto il problema anche di tutti i dati che comunque sono dati molto sensibili, che vanno a finire fondamentalmente chissà dove. Quindi anche questo, diciamo, sensibilizza molto Eliza, perché uno dei temi principali dice: ok, qui raccolgono tutti questi dati personali, proprio sensibili sullo stato di delle persone, su come addirittura c'è, come ti fa vedere all'inizio, per esempio, che dopo la prima seduta che fa vedere all'inizio, la tua superiore si va a vedere la registrazione di tutti i dati, quello tranquillamente, di quello che è successo, che è vero che lui dice, vabbè, c'è il permesso privacy, però comunque c'è, anche se sei nella stessa società e tutto, cioè c'è tutta un'implicazione dal punto di vista deontologico assurdo che dice, ma cacchio! Poi dico l'ultima cosa, poi ti faccio parlare di nuovo. Io ripeto, ci ho giocato poco. E la cosa bella è che, a parte che è ricreato molto bene, sia dal punto di vista, cioè proprio, è molto credibile proprio comunque la protagonista che ha creato questo software, che poi abbandona, che poi ritorna, che poi ci va a lavorare come proxy, eccetera eccetera, tutto il fatto di come funzionano le aziende, questo tipo di aziende, come organizzato, cioè tutto molto verosimile, molto realistico, e anche il fatto, anche per esempio, come ti dicevo prima, come ci siamo detti oggi quando ci siamo confrontati, è vero che alla fine dopo un po' vedi che Eliza dice fondamentalmente sempre più o meno le stesse cose, conduce tutti i colloqui tutti in un certo modo, magari è stata addestrata, diciamo, a interagire in un certo modo quando ci sono delle irregolarità. Ora le spiego, però bene o male bene o male si affida comunque a delle linee guida anche piuttosto generali di come anche uno psicologo potrebbe condurre. Io ti avevo detto, quando diciamo parlava il paziente, io già stavo immaginando cosa chiedervi, e poi vedevo Eliza che gli chiedevo quella cosa, bene o male, già banalmente all'inizio: da quanto tempo ti senti così? Una delle prime domande. Cioè, anche da questo punto di vista, cavolo, è fatto bene. Poi la cosa mostruosa è quando vai a vedere che giustamente quando il primo cliente ti dice disperato, cioè io lo so che sto parlando con un computer qua, ma io voglio parlare con te persona, perché diciamo la protagonista fa praticamente da lettrice, gli vengono, cioè il visore con cui gli vengono gli input, cioè lo script, quello che deve leggere, quello che Eliza gli suggerisce di dire, è una delle regole principali per lavorarci, dire non uscire fuori dallo script, non dire niente che sia farina del tuo sacco, attieniti strettamente a quello che i suggerimenti che ti vengono detti, che Eliza ti propone visivamente. Tu sei solo la componente umana per rendere, diciamo, per rendere più affidabile, diciamo, per rendere più umana appunto l'interazione con le persone. Quando questa persona inizia a dire io lo so che stai leggendo, so come funziona, so che sei un computer, ma io voglio parlare con te, voglio parlare proprio con te, per favore dimmi che ci sei, dimmi che ci sei. E a quel punto vedi Eliza che ti fornisce le risposte. Ok, ciao, sono Evelyn, tranquilla. Cioè, stessa Eliza che ti propone, cioè, che è stata addestrata a risolvere queste situazioni, che fa finta, cioè si finge di essere la persona sincera, è quello che ci crede, che ti dice oh, grazie che ti sei rivelata, grazie, lo so che stai avendo dei problemi o facendo sta cosa, che l'hai fatto per me. Eliza che gli risponde tranquillo, sta a posto. Sta cosa davvero, quando cioè subito il primo cliente dice no, vabbè, è inquietantissimo, però no, perché dal punto di vista deontologico ci sono, cioè, tante di quelle cose che manda a puttane, che è una cosa assurda. Comunque, a parte questo, diciamo, alla fine tu hai già parlato molto, tu però hai già detto molto delle tue cose. Poi comunque riporto eventualmente alla live, che è recuperabile, in cui ci sono, cioè, le tue 13 ore di live in cui che me li rivedrò pure io, però dopo che l'ho finito il gioco, in cui bene o male hai potuto esprimere maggiormente, anche puntualmente, le tue opinioni, le tue bestemmie, i tuoi biastimi in merito. A parte questo, diciamo, hai voluto portare Eliza proprio perché mi diceva, era contesa, è piaciuto molto a me, ha molto a che fare con quello che ho fatto io, che studio io, che sono io, ha a che fare con la tecnologia, con i videogiochi, eccetera eccetera. Quale gioco migliore? Infatti è vero, hai scelto un gioco perfettissimo, proprio calzantissimo da tutti i punti di vista. A parte questo, diciamo, mi hai detto bene o male quello che Eliza, diciamo, ti ha fatto venire in mente quando lo stavi giocando, ma una volta che l'hai finito, sono scorsi i giorni di coda, è passato un giorno, due giorni, cosa ti ha lasciato Eliza? Cosa ti ha fatto ragionare? Cioè, ti ha lasciato, l'hai finito, sei passato subito all'altro gioco, o ti ha lasciato un qualcosa? In qualche modo ti ha cambiato la percezione per qualcosa? C'è da dire che appunto a me piacciono tanto avventure o novel, insomma, che parla anche di problemi psicologici, anche da mio UI, Life is Strange, quindi sono tutti giochi che, nel senso, io anche i film, a me piacciono i drammatici e mi prendono tutti in giro, le palle, questi drammatici, questi film polacchi che ti guardi solo te e mi dicono va bene, però sono quei film che poi mi ci fanno riflettere, cioè nel senso mi lasciano un qualcosa, per quanto mi piaccia pure la serata commedia, va bene, però mi piace il videogioco che ti fa riflettere, il film che ti fa riflettere, che ti lascia un qualcosa in testa. Io vado a letto e non vado subito a dormire, rimango a pensare a quello che ho visto, mi metto a vedere notizie, cose, eccetera. E poi se penso giorni dopo e continuo a parlarne pure all'infinito, che il mio ragazzo mi fa vabbè basta, ho capito, ti è piaciuto, basta. Quindi Eliza è uno di quei giochi che onestamente mi porto avanti ancora, cioè nel senso a volte io penso, perché siccome il mio obiettivo nella vita, spero di poterci arrivare, è diventare psicologa clinica e quindi aiutare le persone che hanno lo stesso problema e non solo, perché so che cosa significa, E il mio obiettivo è veramente riuscire ad aiutare queste persone a vivere meglio, a sentirsi meno sole, perché poi queste malattie ti portano a sentirti solo, perché non riuscendo a fare nulla tu ti precludi qualsiasi possibilità, no? Perché dici no, non me la sento, non ce la faccio. Allora rimani a casa, rimani da solo, magari gli amici ti dicono andiamo lì e tu dici no, oggi no, perché magari non te la senti, non ti senti bene. Poi per come sono fatta io, a me non, ripeto, non mi piace fare il momento dei TV, strappalacrime, oddio sto male, povero. Non lo stai facendo, tranquillo. Dire, cioè neanche con gli amici, anche se gli amici sanno, cioè io con gli amici sparo cazzate, quello che io sono in live sul canale, quindi sono così tutti i giorni della mia vita, non è che sto a recitare la parte da simpatica per avere mi piace, non me ne frega niente. Cioè de base io sono così, come tu mi vedi adesso, come tu mi vedi nel canale, e chi mi conosce dal vivo sa che io sono così, parlo sempre sempre di cavolate, ma perché io so che tutte le persone hanno i loro problemi, ma io posso stare a rompere sempre con i miei, cioè lo sanno, basta, è inutile, abbiamo nucleato, il discorso è quello, fine, non è che devo stare lì a piagne addosso, cioè è quello, basta, c'è cioè, questa problematica, io l'affronto tutti i giorni, i miei amici lo sanno, mi stanno vicini, però poi parliamo di cazzate e famo due risate, cioè è inutile che uno sta lì a rimuginarci sopra, no? Cioè ci sta questa cosa, famosi una risata che se ne frega, cioè nel senso non è un problema. Ad esempio parlare di questa cosa all'inizio mi faceva piangere tantissimo, perché mentre ne parlavo mi sentivo devastata, adesso io ne parlo tranquillamente, come stai vedendo sto tranquilla, e anzi mi fa piacere proprio divulgare questa cosa, perché ripeto deve essere capito che non è una vergogna ed è una malattia come le altre. Quindi io conosco tante persone giovani che hanno varie problematiche mentali, e questa cosa un po' mi preoccupa, perché nel senso la malattia degli anni 2000, al di fuori del Covid che è stata una cosa che succede una volta ogni 100 anni, una pandemia, cioè non è una cosa proprio che succede tutti i giorni, la malattia degli anni 2000 è mentale e colpisce tanti tanti giovani sempre di più. Il Covid ha dato un'altra mazzata a tanti giovani. Con tutti gli argomenti che, partendo anche da un videogioco come l'AISA, poi io sto lì, capisci, collego quello con quell'altro, con quell'altro, con quell'altro, con quell'altro, e quindi è un gioco che mi è rimasto proprio qua, perché penso, io quando sono andata dallo psicologo mi è piaciuto avere un contatto umano, avevo bisogno di un contatto umano, di una persona che mi guardava negli occhi, che mi capiva, che capiva il mio dolore, che mentre glielo dicevo tra le lacrime mi confortava, capito? Cioè mi dava la speranza di poter stare meglio, mi comprendeva, mi ha dato la mano per fare questo percorso insieme passo dopo passo. Cioè un computer non lo potrà mai fare, capito? Questa cosa io ogni volta ci penso e dico no, vabbè, io davanti a un computer non ci sarei. Per quanto io ami la tecnologia, dal punto di vista medico, soprattutto psicologico, io ho bisogno di un essere umano, di confrontarmi con una persona che comprenda che cosa significa provare l'ansia, la paura, la solitudine, la depressione, tutte queste cose qui, la rabbia, anche rabbia, uno quando sta in questa condizione spesso prova anche rabbia, la vergogna, io mi vergogno, no? Mi sono vergognata soprattutto all'inizio tante volte di stare così, che vergogna. Quindi sono tante cose, non è solo la malattia, è tutto ciò che ti circonda che rende questa malattia ancora peggio, perché è un cane che si morde la coda, no? Poi magari non riesci ad andare al lavoro e allora questo ti fa sentire ancora peggio e poi ti senti ancora peggio e quindi non riesci ad andare al lavoro perché sempre più ristringere il campo, sì, forse. Una cosa poi prende tutta la tua vita, si ramifica e prende tutta la tua vita, ma completamente. E quindi, ripeto, è stato fondamentale per me avere una figura umana, professionale, che sapeva di che cosa stavo parlando. È bellissimo perché in 5 minuti ha capito come sono fatta, dall'inizio alla fine. Io sono rimasta così, genio, artista, cioè nel senso bravissimo. Esperienza. Capito, meglio quasi di me stessa in 5 minuti di chiacchierata. Infatti dico, no, vabbè, chapeau, complimenti, perché onestamente... Wow! E questo cosa ti fa comprendere? Che un gioco come l'AISA a me preoccupa, perché se prima o poi succederà veramente che uno vada allo psicologo e vada a un computer, a me questa cosa preoccupa tanto, perché, ripeto, abbiamo visto, poi quando tu finirai il gioco lo vedrai che fa anche danni, cioè il computer fa danni, anche, fa danni anche gravi, lo può fare anche l'essere umano, perché è una responsabilità essere uno psicologo, tu hai tra le tue mani la vita di una persona, come un chirurgo che c'hai tra le tue mani la vita di una persona, se viene da te una persona depressa e tu non sai aiutarla e guidarla, magari quella persona va a casa e fa un atto, insomma, brutto, ok? Cioè, capisci che tu c'hai davanti a te una persona che sta male. Se non sei capace di aiutare quella persona, è meglio che non lo fai. Perché potresti fare solo danno. E il computer in Eliza, verso la fine, fa danno. Fa danno. A me è finito che una ragazza, da quello che ha detto, andava a casa ad ammazzarsi. E io sono rimasta così. Capisci? Cioè, nel senso... E il computer non gliene è fregato niente, gli ha detto vabbè ci vediamo la prossima settimana, quando lei ha detto va bene allora vado a casa e la faccio finita, e il computer ha risposto ci vediamo la prossima settimana, fai i tuoi esercizi. Cioè uno psicologo non direbbe mai vabbè ci vediamo la prossima settimana e quella ti sta dicendo vado a casa a suicidarmi. Sottolineiamo, uno psicologo bravo. Sì, lo psicologo lo sa fare, insomma, chi gli interessa farlo. Quindi onestamente io quando ho visto quella scena sono rimasta così, e questa cosa mi è rimasta qua, perché dico, se arriveremo a quel livello, secondo me sarà da preoccuparsi, onestamente. Un essere umano nei casi drammatici chiama un esperto, uno psichiatra, un ospedale, un servizio di, non lo so, di non lasciare da sola questa persona, perché magari quella tornava a casa, stava da sola e si ammazzava. Ma se uno ti dice così, chiami qualche aiuto, qualcosa per non lasciare da sola questa persona, non può rimanere da sola questa persona. Cioè, un essere umano non lo farebbe, insomma, a meno che sei proprio bastardo dentro, però tendenzialmente se fai lo psicologo vuoi aiutare le persone a stare meglio, se uno ti dice mi vado a suicidare, non è che gli dici vabbè bella, ciao, se vediamo ho finito il turno, insomma. Quindi Eliza è uno di quei giochi portato sul canale che mi è rimasto qua. Sì, ma anche volendo pensarli in modo ultra cinico, ma faccio una mezza battuta. Te che dici, vabbè, ci vediamo la prossima volta, però poi a fattura chi te la paga? Cioè, volendo essere ultra cinici, ma ridiamoci. Però è vero, cioè, comunque sollevi una cosa, sollevi comunque una preoccupazione molto, cioè, una cosa che... meno male che siamo preoccupati adesso, perché dobbiamo vedere il modo di metterci, di non fare quell'errore, metterci una persa. Comunque la cosa bella di Eliza, non saprei se definirlo fantascientifico, perché ripeto, si rifà delle cose che potrebbero esistere già adesso, che già fondamentalmente esistono adesso, non a quel livello lì. Lì c'è tutta, diciamo, l'ho visto, lì mettono molto l'acceleratore sul cinismo delle grandi compagnie che gestiscono il digitale, mettono molto l'accelerazione su questo, perché effettivamente c'è Google, Facebook, Amazon, cioè alla fine andare a vedere, vogliono mangiare i tuoi dati, offrire dei servizi e tutto, però non è che c'hanno fondamentalmente così granularmente forse a cuore l'individualità di una persona e tutto, forse. Però io dico difficilmente forse si arriverà davvero sto così impersonale, perché qui il gioco immagino sia stato creato proprio per enfatizzare questi eventuali pericoli, però ripeto, nell'eventualità in cui ci sia una cosa simile, ripeto, uno sempre deve essere sempre strumento a disposizione di, come per te sono stati i videogiochi, ha detto, a livello di come per te sono stati i videogiochi, per me sono stato uno strumento di, uno strumento con. È successo a te che spontaneamente hai scoperto, diciamo, hai trovato il modo di usarli in modo terapeutico, come ci possono essere psicologi, quelli là che praticano la geek therapy, video game therapy, eccetera, eccetera, in cui ti riescono a piegare in modo più consapevole, più puntuale, proprio i videogiochi in senso terapeutico. Però comunque sono degli strumenti che prendi e che nel momento in cui vedi che non ti servono, ti fanno del male, piglia e togli, piglia e limiti, non andare proprio così a punzecchiare, a dire come hai detto tu, perché, cioè l'esempio che mi hai detto della tizia che ha detto ok me ne vado a casa a farla finita, ci vediamo la prossima volta, diciamo è un'esagerazione giusta volutamente, cioè non è un difetto, nel senso giustamente, essendo da questo punto di vista, vedo che è fantascientifico, nel senso che la vera fantascienza, quella fatta bene, è una che in qualche modo, in modo enfatizzato, ti parla della società moderna e per evidenziarne eventuali rischi, eventuali pericoli, eventuali situazioni. In questa situazione sì, perché è un po' estremo il fatto che davvero l'intelligenza artificiale, che è addestrata a gestirti, quando dice dimmi che sei una persona vera, e dice sì sì, io sono io, non è vero, sono io che sto parlando, non sono Eliza, sono Evelyn che sto parlando, in realtà è Eliza che ti sta dicendo, che poi non è addestrata per gestire uno che dice basta, la faccio finita, è un pochino troppo un'esagerazione, però cavolo, dice badiamoci se davvero dobbiamo creare una cosa del genere, stiamo attenti, perché questo non è solo uno dei tanti pericoli che ci possono stare, questa è è proprio la cosa estrema di una che prende e se va ad ammazzare, però comunque ci sono tante sfumature nel tramite di pericolosità, di eventuali rischi, già banalmente il fatto che una persona che, come dice tu, la vecchina, che si sente sola e si ritrova a parlare, a stare comunque di nuovo da sola, comunque, perché comunque sta parlando con un computer che deve seguire comunque determinati pattern, script, e più di quello non va oltre. Comunque ci sono vari livelli, ma la cosa bella infatti è che io fino a mo' ho avuto a che fare solo con i primi due pazienti, non gli altri, poi vedrò gli altri, però vedo che, come detto, ognuno, diciamo, è diverso dall'altro, ti fa vedere varie sfumature, diverse problematiche, è un pochino portato all'eccesso quel tipo di trattamento, quel tipo, diciamo, di modo di intervento, cioè computer statico che riesce a fare finta in qualche modo di essere sensibile, ma in realtà l'importante è che fa venire clienti, rende ottimizzati i clienti per far venire ancora più clienti e far fare ancora più soldi a quelli che ci stanno sopra, far gestire ancora più dati per farci ancora più roba, diciamo, questa è la cosa più che bisogna stare attenti in particolar modo, perché ripeto, cioè, sembra fantascientifico ma non lo è fino in fondo. Quindi ti ringrazio che mi hai fatto parlare di sto gioco, ma recupereremo un po', non ho cagato tanto la chat, se vuoi la caghiamo un pochino insieme, c'è Simone che vabbè parla a Bamber come a sempre e scrive cose su cose. Ah sì, vabbè, un attimo, vai, un attimo che devo scorrere, vabbè, ci diceva il fatto che comunque vabbè, lo strumento sarcazzo, live dove è blastato, cioè, vabbè, è il fatto che dice che negli anni 80 questo ripetuto probabilmente è una rielaborazione di Eliza, poi la malattia non dava importanza a me, infatti non so, purtroppo non so riferire a che cosa, poi diciamo il fatto, un plauso a te, dice la community forse ok non c'ha, è piuttosto piccola per ora, però comunque molto unita, molto coesa, molto compatta, molto viva la community che ti circonda, perché dice sei autentica, sei una persona, è una cosa che si evidenzia in qualunque momento, cioè in qualsiasi, anche nei messaggi che mandi e tutto, cioè c'è un senso di autenticità, di avere a che fare davvero non con un Eliza, non con uno schermo, capito? Non con una persona attraverso uno schermo, però davvero, cioè, sei davvero tridimensionale da questo punto di vista, anche te lo dico, anche nei gameplay in cui solitamente si sente solo di voce, no? Cioè ovviamente fai il gameplay in cui non ti inquadri, fai sentire solo la voce, però comunque il modo in cui parli, interagisci è davvero, a parte che è spassosissimo, se la fai morire, cioè davvero ti dà questo senso proprio di avere a che fare con una persona, pure se non la stai seguendo in live, cioè dai, il presente che sei lì che stai parlando, che stai giocando, che sei nella stanza accanto che mi stai giocando e mi stai biastimando oppure ti stai divertendo. Poi una cosa bella che ho visto che spesso quando nei giochi, per esempio l'ho visto negli ultimi, quando in Gabriel's Night, in cui essendo gioco della Sierra, cioè Sierra è una vecchia azienda che produceva avventure grafiche, in cui si moriva, era tradizione che ogni 3-2 si moriva, quindi dovevi stare attento, anche se era un'avventura grafica, quindi non un gioco d'azione, si moriva ogni 3-2 e ti facevi 2-3 risate, pure una volta che avevi salvato mentre stavi morendo, cioè non è che ti hai fatto una risata, è questo, è forte, dico no, non è possibile, è tempo di morire. Questo è un classico, soprattutto negli sparatutto. Quante volte mi è successo di fare F5 salvataggio rapido proprio nel momento in cui beccavo l'ultimo proiettile e quindi dovevo ricaricare. Cioè, per esempio, questo è anche un esempio di come si può giocare in modo, tra virgolette, non tossico, perché spesso comunque queste cose generano frustrazione in buona parte della persona. Spesso diventa un problema gestire questo tipo di rabbia e questa frustrazione. Però in realtà proprio dal videogioco, essendo quella cosa che non ti fa dei danni reali, può essere usato proprio per imparare a gestire la frustrazione, per imparare a gestire la rabbia in qualche modo. Leggo anche esempio piccolo. Ieri vai. Io sono una caga sotto allucinata. Di solito gioca Gabriel, io lo guardo. Ieri sera dico, vabbè, PC nuovo, famo horror. È durata 2 ore e 20 più o meno la live. Ovviamente io qualsiasi suono, così, cioè, piano piano, non voglio, sento, vibra il joystick, ho paura, faccia impaurita. Però che ho detto, io sono una persona che ha tanta paura, ma come si affronta la paura? Soltanto facendo le cose. E quindi ieri ho affrontato la mia paura dei giochi horror giocandoci. Quindi questa è un'altra cosa in più, vedi, mi aiuta ad affrontare anche le mie paure. Quindi perché no, potrebbe essere terapeutico anche in questo. Sì, ripeto, ed è un gioco commerciale che è stato non sviluppato proprio precisamente in modo, diciamo, sanitario, in modo terapeutico davvero, però comunque può essere usato. Poi ci sono ovviamente tante applicazioni, soprattutto la realtà virtuale funziona moltissimo per le paure, per le fobie, perché ti permette l'esposizione graduale in modo che è etico e deontologico, perché tu, terapeuta, non dice ho paura degli spazi chiusi, non lo fai chiudere nell'armadietto cioè dello studio e poi dice piano piano vediamo, cioè, no, lì con la realtà virtuale te la indossi e prima sei una stanza un po' più un po' più grande, poi ti sei abituato, va bene tutto, poi quello un po' più, fino a quando non stai in una casa un po' più, una stanza un po' più chiusa, cioè nello stanzino. I però questo, ripeto, è un software sviluppato apposta per fare questo. I videogiochi, cioè quello è il gioco horror, figurati se c'è a mente, lo potranno giocare le persone che hanno paura, forse gli servirà per affrontare, chi se ne frega un cacchio di questo. Eppure, nonostante non sia stato un pochino, ripeto, questo è il bello dei prodotti culturali barra artistici, che sia i libri, che siano i film e tutto, che non sono sviluppati per curare qualcosa, eppure un senso di arricchimento, di terapia, ce lo trovi. Leggo un attimo, scusa, Antropologo Digitale, che diceva anche la Wii e Wii Fit, poi ti andavano a chiedere se stessi bruciando le carrozzerie e se ti fossi mosso, infatti... In qualche modo deve andare a vedere Gabba K, infatti ne ha parlato anche in Runtime by Night del fatto che c'hai gli attacchi di panico. Saluto Marco, che abbiamo fatto la live la volta scorsa, però stiamo a chiudere qua. Poi Antropologo, ogni riferimento al caso di Catfish, servizi giornalistici invadenti e molesti, è puramente casuale, se si riferisce al fatto delle Iene, che siamo andati a prendere quello che cioè, tutta quella situazione assurda. Vabbè, leggo un attimo, Simone, se Deb non fosse quello che è quello che fa trasparire di sé, io non ci avrei perso tempo, neanche io. Non voglio essere presuntuoso, ma è così. Lo sei comunque presuntuoso, però fa niente, Simone. Deb, come vogliamo concludere questa? Ci abbiamo fatto stretta di chiacchiera, è stato estremamente piacevole. Cioè, lasciaci con una parola, con qualcosa, vai. Invitata, è stato un onore, perché ripeto, per me è molto importante parlare delle malattie mentali in generale, perché basta un tabù, siamo nel 2022, è l'ora che anche l'Italia inizi a comprendere che è una malattia come le altre, che non è colpa della persona che ce l'ha, è una malattia che può capitare a tutti. Bisogna mettere in conto che una cosa può capitare a tutti in qualsiasi periodo della vita. Cioè, a me è arrivata a 29 anni. Cioè, nel senso, non è che ci sono nata, è arrivata a 29 anni. Cioè, è una cosa che possiamo avere tutti, quindi va presa seriamente. Come viene preso seriamente un tumore, tutte le malattie dimostrabili. Io faccio una LASP, ti faccio vedere un attacco, quello che sia, ti faccio vedere. Ecco qua, c'ho la malattia. Siccome se io faccio un attacco e non appare niente, non vengo presa seriamente, ma in generale da nessuno, cioè nel senso mi danno sempre un po' la colpa, no? Però tu sei debole, però dai, cioè, prova. Però ti devi spostare, eh. Ce la puoi fare, dai, che non riesci a resistere altri 2 minuti in macchina, perché devi scendere? Dai, siamo quasi arrivati, no? Capisci? A una persona che ha una malattia fisica non gli dici una cosa simile, ok? Quindi la malattia mentale purtroppo tuttora non è presa seriamente, io non vengo presa seriamente spesso, quasi nessuno mi capisce davvero, solo il medico e lo psicologo o chi l'ha provato lo capisce veramente, perché è anche difficile da spiegare che cosa provo. Tante volte quando l'ho spiegato al mio ragazzo o ai miei amici o alla mia famiglia, lo sai che non è proprio facile a parole, perché io ti posso descrivere quello che sento. Però non è la stessa cosa di averlo studiato o averlo provato. Cioè io vedo anche il mio ragazzo, lo viva giorno e notte tutti i giorni. Non mi riesce a comprendere del tutto. Quindi secondo me è bene parlarne, perché più ne parliamo, più diventerà una normalità. Nel senso, è una malattia come le altre. Tante persone ne soffrono, purtroppo ne soffrono sempre di più e soprattutto tanti tanti giovani, e quindi non deve essere più un tabù. E se una cosa come i videogiochi possono aiutare le persone a stare meglio, ben venga. Comunque diciamo, qualsiasi hobby, qualsiasi passione sicuramente aiuta la persona a stare meglio, perché la tiene impegnata, perché ti dà delle gratificazioni. Io ad esempio ieri sera quando sono andata a letto ho fatto a Gabri, ho detto: oh mazza, sono riuscita a fare 2 ore e 20 di un gioco horror, cioè sono fiera di me stessa, capito? Sembra una cazzata, ma ogni piccolo step in verità fa molto bene, e quindi i videogiochi ti possono dare tante soddisfazioni, come me ne sta dando tanto il canale. A me questa cosa sta aiutando tantissimo, quindi io sono fiera di aver potuto parlare grazie a te davanti a delle persone, anche a degli esperti, antropologi, eccetera, eccetera, della mia situazione rapportata poi al mondo dei videogiochi, insomma. Molto contenta di questa cosa. Dai, ringrazio. E grazie. No, in realtà, cioè, io dovrei più che altro ringraziare te, in realtà, perché è vero che ti ho invitata, però sei tu che hai accettato di parlare di questo e di portare comunque un gioco che aprirebbe, in realtà potremmo stare qua tutta la serata a parlare di tutte le implicazioni di Eliza e tutto, magari non tutte perché dobbiamo ancora finire, quindi sto appena all'inizio, magari più in là. Prima di salutarti ripeti un pochino la gente dove ti può trovare, dove può vedere queste live che fai. Canale YouTube Pixel Deb, Deb D-E-B-H finale. E poi siamo anche su Telegram, ci abbiamo anche Discord, però su Discord in verità parliamo off topic, quindi di film, libri, che abbiamo mangiato, guarda ho fatto una frittatona stasera meravigliosa, cioè queste cose qua, e a volte parliamo anche col microfono, ma facciamo delle chiacchierate. E c'è anche Instagram, c'è la pagina Facebook, ma principalmente comunque la parte attiva è YouTube soprattutto e Telegram, dove tutti i giorni comunque condividiamo notizie sui videogiochi, non solo il canale, notizie sui videogiochi in generale, le commentiamo insieme, e potete anche votare il gioco che volete vedere online o come video, eccetera eccetera. Quindi ripeto, si è formata questa piccola ma bella community e sono molto molto contenta. Va bene, in ogni caso ora farò comunque le storie, eccetera, eccetera. A parte questa live la salverò e la farò in modo condiviso, in modo che poi appaia pure sul tuo profilo da pubblicare e tutto, ma poi metterò i link al tuo canale e tutto, perché cioè, alla fine è tutto... Sta live l'hai fatta campa tu, contentamente, cioè l'hai mandata avanti tu. Io mi innestavo dove potevo, dicevo le mie 2 o 3 stronzate, ma comunque la protagonista qua sei tu. Come voglio che sia in ogni appuntamento di questo genere, voglio che chi è protagonista è la persona che faccio parlare, perché io sono qua, amen, cioè, posso aiutarti a far parlare, a sviluppare alcuni temi, però voglio che siano proprio i giocatori che parlano della loro esperienza a 360 qua. Bella, qua ci saluta poi il priore dopo un bel fottiti che fa le frittate. Quindi salutiamo il priore, quindi salutiamo anche non solo Simone, salutiamo anche Runtime Radio, non ci dimentichiamo runtimeradio.it. E niente, il mio invito non solo ad andare a vedere, scusate, ad andare a visualizzare, ad andare a vedere quello che combina su YouTube e in tutti gli altri canali che ha citato Deborah, ma anche se conoscete qualcuno che ha un certo tipo di problematica, qualcuno che schifa i videogiochi, qualcuno che magari è reticente sul capire che i videogiochi possono servire a qualcosa, servire alle cervella, condividete gli sta live. Al massimo, forse è lunga, non sa seguirà tutta, fategli in riassunto. In qualche modo fate sapere alla gente che questi videogiochi, cavolo, possono essere utili, non solo divertenti e belli, oppure e assolutamente non sono delle cose brutte, le cose. Ecco, tu dicevi il tabù della salute mentale, in questo in qual modo c'è anche il doppio tabù. Peccato, è arrivato adesso con il coach, ci stiamo salutando adesso, da recuperi in difterite. Che sto dicendo, c'è il doppio pregiudizio sui videogiochi, che pure è stato, diciamo, un gran modo scardinato, ma non a livelli così importanti da dire che l'abbiamo superata sta cosa. Quindi qualsiasi minimo contributo di parlare di sta cosa è ben accetto, soprattutto con persone come te, con cui, cioè, ripeto, sei quadridimensionale, te parli, ma è come se davvero ti avessi qua di fronte, per quanto sei autentica e tutta. Grazie. Niente, io dico, cosa? Come se fossi tutti qui, da una volta l'ho detto su Telegram, quando gioco è come se fossi tutti qui in salone praticamente, uno dice ma che mucchiata, no vabbè non era la mucchiata, era soltanto per dire che era come se tu giocate qui tutti con me praticamente, non volevo fare la mucchiata, insomma. Ok, soprattutto in tempi di Covid a mucchiata, secondo me. Aspettiamo ancora. Meglio evitarlo. Con questo vi saluto. Allora, andate a vedere che fa Deborah, e stiamo a tre volte. L'appuntamento invece con le dirette riprende, allora, la settimana prossima, sempre con questo appuntamento con le cervella di una gamer. Poi lo presenterò, già ho trovato l'ospite, anzitempo. Sarà un'altra gamer che avrà voglia di parlare di un altro gioco particolare, che stavolta però non conoscevo vagamente, ma non ho mai giocato. Sarà comunque un esperimento, perché abbiamo fatto la prima live in cui il gioco, vabbè, lo sapevo a menadito. A te che il gioco l'ho appena iniziato, e farò una diretta a una persona di un gioco che praticamente non ho mai toccato in vita mia. Sarà, vabbè, poi farò le storie e tutto. Inoltre settimana prossima ci sarà anche, ma forse è meglio se l'annunciamo insieme, ci coordiniamo bene con Antropologo Digitale, in cui parleremo stavolta di nuovo di FOMO, però stavolta lui parla più delle cose, più dal punto di vista antropologico. Poi analizzeremo, perché in questi giorni ho pubblicato il link a un questionario, proprio una scala sulla FOMO, che non ho creato io, era proprio una FOMO scale che è stata creata da, tra l'altro, uno che studia, uno psicologo che studia videogiochi, uno dei più quotati, Szczybliski, un nome tutto polacco, impronunciabile. Prova a non pronunciarlo, perché sennò evoco Cthulhu come minimo. Comunque, quindi è una scala seria, un pochino per capire un pochino cioè, se ce l'ho o non ce l'ho banalmente. Quindi sto raccogliendo un pochino di risposte, quindi le metterò di nuovo i link, tra l'altro c'è in via il link, fatelo sto questionario perché ci sarà utile. E poi in questa live diremo anche un pochino, cercheremo di trarre un pochino le conclusioni, anche di dare qualche minima indicazione di come imparare a gestirle altro. E poi ci sarà un'altra diretta in cui, vabbè, sarò ospite del giovane psicologo, in cui parlerò, guarda, questo argomento nuovo di cui non ho mai parlato, di psicologia e videogiochi. Quindi ogni occasione è buona per parlare di questa cosa. Basta, ci siamo dilungati un po' troppo, mo devo andare a cucinare fra poco, non so te che devi fare, però va bene, è stato piacevolissimo con te, Max. Ciao, te la recuperi, in, in difterite, perché stiamo chiudendo qua. Grazie di tutto, buona serata e alla prossima. Ciao. Buona serata. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.